Le ore della passione di nostro Signore Gesù Cristo, scritte da Luisa, la piccola figlia della Divina Volontà. Prima ora, dalle 5 alle 6 del pomeriggio, Gesù si licenzia dalla sua Madre Santissima. Preghiera di preparazione. O Signor mio Gesù Cristo, prostrata alla tua divina presenza, supplico l'amorosissimo tuo cuore che voglia ammettermi alla dolorosa meditazione delle 24 ore in cui per nostro amore tanto volesti patire nel corpo adorabile e nell'anima tua santissima fino alla morte di croce. De, dammi aiuto, grazia, amore, profonda compassione e intelligenza dei tuoi patimenti mentre ora medito l'ora dalle 5 alle 6 del pomeriggio. E per quelle che non posso meditare, ti offro la volontà che avrei di farle, e intendo intenzionalmente meditarle in tutte le ore che sono costretta o di applicarmi i miei doveri o di dormire. Accetta, o misericordioso Signore, la mia amorosa intenzione, e fa che sia di profitto per me e per molti, come se effettivamente e santamente eseguissi quanto desidererei di praticare. Intanto grazie ti rendo, mio Gesù, che per mezzo della preghiera mi chiami all'unione con te, e per piacerti di più prendi i tuoi pensieri, la tua lingua, il tuo cuore, e con questo intendo pregare, fondendomi tutta nella tua volontà e nel tuo amore. Estendendo le braccia per abbracciarti, poggio la mia testa sul tuo cuore ed incomincio. Gesù si licenzia dalla sua Madre Santissima. O Celeste Mamma, l'ora del distacco già s'appressa, ed io a te ne vengo. O Madre, dammi il tuo amore e le tue riparazioni, dammi il tuo dolore, perché insieme con te voglio seguire passo passo l'adorato Gesù. Ed ecco che Gesù viene e tu, con l'animo traboccante d'amore, gli corri incontro, e nel vederlo sì pallido e triste, il cuore ti si stringe per il dolore, le forze ti vengono meno e sei già per cadergli ai piedi. O celeste mamma mia, sai tu perché è venuto da te l'adorabile Gesù? Ah, egli è venuto per darti l'ultimo addio, per dirti l'ultima parola, per ricevere l'ultimo abbraccio. Oh madre, a te mi stringo con tutta la tenerezza di cui è capace questo mio povero cuore, affinché stretto e avvinto a te anch'io possa ricevere gli abbracci dell'adorato Gesù. Mi ridegnerai tu forse, o piuttosto non è un conforto per il tuo cuore avere un'anima a te vicina che ne divida le pene, gli affetti, le riparazioni? O Gesù, in quest'ora sì straziante per il tuo tenerissimo cuore, quale ammaestramento non ci dai tu di filiale ed amorosa obbedienza verso la mamma tua? Quale dolce armonia non passa fra te e Maria? Che incanto soave di amore che sale fino al trono dell'Eterno e si dilata a salvezza di tutte le creature della terra. O celeste mamma mia, sei tu che vuole da te l'adorato Gesù, non altro che l'ultima benedizione. È vero che da tutte le particelle del tuo essere altro non escono che benedizioni e lodi al tuo Creatore, ma Gesù, nel congedarsi da te, vuol sentire la dolce parola: ti benedico, o figlio, e quel ti benedico storna tutte le bestemmie dal suo dito e dolce e soave scende al suo cuore, e quasi a mettere un riparo a tutte le offese delle creature, Gesù vuole il tuo ti benedico. Anch'io mi unisco con te, o dolce mamma, sulle ali dei venti voglio girare il cielo per chiedere al Padre, allo Spirito Santo, agli angeli tutti, un ti benedico a Gesù, affinché, andando a Lui, gli possa portare le loro benedizioni. E qui in terra voglio andare da tutte le creature e chiedere da ogni labbro, da ogni palpito, da ogni passo, da ogni respiro, da ogni sguardo, da ogni pensiero, benedizioni e lodi a Gesù. E se nessuno me le vorrà dare, intendo io darle per loro. O dolce mamma, dopo di aver girato e rigirato per chiedere alla triade sacrosanta, agli angeli, alle creature tutte, alla luce del sole, al profumo dei fiori, alle onde del mare, ad ogni alito di vento, ad ogni faviglia di fuoco, ad ogni foglia che si muove, al luccicar delle stelle, ad ogni movimento della natura, un ti benedico, me ne vengo a te e insieme alle tue metto le mie benedizioni. Dolce mamma mia, vedo che tu ne ricevi conforto e sollievo e tutte le offri a Gesù, le mie benedizioni, a riparazione delle bestemmie e maledizioni che egli riceve dalle creature. Ma mentre io tutto a te offro, sento la tua voce tremante che dice: figlio, benedici me pure. O mio dolce amore, benedici ancor me insieme alla mamma tua, benedici i miei pensieri, il mio cuore, le mie mani, i miei passi, le mie opere e con la madre tua tutte le creature. O madre mia, nel mirare il volto dell'addolorato Gesù, pallido e triste, straziante si risvegli in te il ricordo dei dolori che tra poco dovrà egli soffrire. Prevedi il volto di lui coperto di sputi e lo benedici, il capo trapassato dalle spine, gli occhi bendati, il corpo straziato dai flagelli, le mani e i piedi forati dai chiodi, e dovunque egli è, per andare tu lo segui con le tue benedizioni, ed insieme a te lo seguo anch'io. Quando Gesù sarà colpito dai flagelli, trapassato dai chiodi, schiaffeggiato, coronato di spine, dovunque troverà insieme al tuo il mio ti benedico. O Gesù, o Madre, vi compatisco, immenso è il vostro dolore in questi ultimi momenti. Il cuor dell'uno par che strappi il cuor dell'altra. O Madre, strappi il mio cuore dalla terra e legalo forte a Gesù, affinché stretto a Lui possa prendere parte ai tuoi dolori. E mentre vi stringete, vi abbracciate, vi gettate gli ultimi sguardi, gli ultimi baci, stando io in mezzo ai vostri due cuori, possa ricevere i vostri ultimi baci, gli ultimi vostri abbracci. Non vedete che io non posso stare senza di voi, malgrado la mia miseria e la mia freddezza? Gesù, mamma, tenetemi stretto a voi, datemi il vostro amore, il vostro volere, saettate il povero mio cuore, stringetemi fra le vostre braccia, ed insieme con te, o dolce madre, voglio seguire passo passo l'adorato Gesù, con l'intenzione di dargli conforto, sollievo, amore e riparazione per tutti. O Gesù, insieme alla mamma tua ti bacio il piede sinistro, pregandoti a voler perdonare a me e a tutte le creature le quante volte non abbiamo camminato verso Dio. Bacio il tuo piede destro, perdona a me e a tutti le quante volte non abbiamo seguito la perfezione che tu volevi da noi. Ti bacio la mano sinistra, comunicaci la tua purità. Bacio la tua mano destra, benedicimi tutti i miei palpiti, pensieri, affetti, affinché, avvalorati dalla tua benedizione, tutti si santifichino e con me benedici ancora tutte le creature e suggella la salvezza delle loro anime con la tua benedizione. O Gesù, insieme alla mamma tua ti abbraccio e baciandoti il cuore ti prego di mettere in mezzo ai vostri due cuori il mio, a ciò si alimenti continuamente dei vostri amori, dei vostri dolori, dei vostri stessi affetti e desideri, della vostra stessa vita. Riflessioni e pratiche. Gesù, prima di dar principio alla sua passione, va dalla sua madre per chiederle la benedizione. In quest'atto Gesù ci insegna l'ubbidienza, non solo esterna ma ancora interna, che dobbiamo avere per corrispondere alle ispirazioni della grazia. Alle volte noi non siamo pronti ad eseguire una buona ispirazione, o perché trattenuti dall'amor proprio a cui si unisce la tentazione, o per rispetto umano,